Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Parlando di agricoltura in Italia non si può prescindere dai consorzi agrari, in realtà forse poco conosciute ma fondamentali e che sono gli interlocutori privilegiati per il mondo agricolo. Per conoscere un po' di più di questo mondo, che forse conosciamo più che altro come il luogo dove si vanno a prendere le sementi, i pesticidi, tutto quanto ciò che serve per i campi, ne volevamo parlare con Paolo Martin, direttore di uno dei consorzi agrari più grandi d'Italia, quello di Padova e Venezia. Ecco, buongiorno. Benvenuto, dottor Martin. Ecco, noi volevamo un po' capire che cos'è un consorzio agrario, magari ripercorrendo anche un po' la storia, quando e perché sono diventate fondamentali questi enti nel territorio. I consorzi agrari hanno una forma giuridica che è la forma di cooperativa, è una cooperativa quindi a mutualità prevalente, dove di fatto ci sono migliaia di persone, di agricoltori soci che governano attraverso delle elezioni che cadono ogni tre anni l'impresa consortile. Ancorché agiscono e sono nati nei primi anni del Novecento, penso a quello di Padova che è nato nel 1927, e nascono per volontà di poche persone con una spinta decisa da parte delle istituzioni proprio per aggregare e per sviluppare entità organizzate che fossero al servizio del territorio e dell'agricoltura, ma nascevano in un momento storico dove c'era la necessità di sfamare il paese. Nel corso degli anni e dei decenni si è trasformata questa vocazione da vocazione, chiamiamola quasi assistenziale di sussistenza, a occasione e opportunità di impresa per le imprese agricole. In effetti oggi il consorzio agrario si può ben definire come un'impresa a servizio delle imprese agricole e a servizio a 360 gradi, perché in un consorzio agrario, e come in tutti i consorzi agrari, si sviluppa dall'attività di consulenza, di assistenza tecnica, di esitazione dei prodotti primari, quali sementi, agrofarmaci, concimi e quant'altro, a servizi di raccolta poi alla fine del prodotto maturato, in un percorso di filiera che porta il reddito all'impresa agricola, che io amo generalmente chiamare un servizio che va dal seme al soldo, nel senso che distribuiamo il seme e forniamo assistenza tecnica alle imprese agricole, ma non solo alle imprese agricole, anche a qualsiasi cittadino che comunque ha un pezzo di terra e lo vuole coltivare, e poi siamo nella disponibilità di raccogliere il prodotto e di esitarlo sul mercato, fornendo quindi il reddito anche all'impresa agricola stessa. Questo è un po' il servizio. Il consorzio agrario di Padova e Venezia, poi sviluppandosi nel tempo, soddisfa i territori delle province anche di, come dicevo, Padova, Venezia e Rovigo, quindi una superficie agraria di oltre 350.000 ettari di superficie agraria utile, ed è nelle disponibilità di oltre 30.000 imprese che sono clienti poi del consorzio agrario stesso. Quindi dalle piccole imprese, medie e grandi imprese agricole, sì, ma sì, anche sì, privati sì, cittadini, dicevamo. Sì, sì, sì. Il consorzio agrario è un'entità aperta a tutti quanti i cittadini, ma poi nel corso del tempo, in funzione delle esigenze, noi oggi esitiamo legna da ardere proprio in funzione anche, ma non solo legna da ardere, mangime per i cani, mangime per certo, i gatti, piuttosto che i sementi da orto, e per dire i guanti, le forbici per portare le rose, i rosetti, cioè ecco, diciamo che l'evoluzione di servizio e la vocazione al servizio che comunque hanno i consorzi agrari è una vocazione a 360 gradi in tutto quello che riguarda terra e animali, ecco, usiamo questo termine qua. Senta, sì, oggi è molto all'ordine del giorno anche la questione sicurezza, sia per le provenienze dei prodotti agricoli. Sappiamo che l'Italia non è autosufficiente, quindi deve anche importare prodotti dall'estero, E poi anche per questioni, magari, per esempio, quest'estate c'è stata la questione delle muffe, delle micotossine sul mais, che poi hanno avuto possibili ricadute anche sulla salute dei consumatori e sul latte. Il ruolo dei consorzi interviene e anche di garanzia in questo? O... Ma proprio per la sua conformazione, diciamo, di public company, di organizzazione, che è un'organizzazione privata ma a servizio diciamo pubblico, lavora anche in questi termini. La nostra è un'azienda certificata in tutti quanti i sensi, cerca proprio di trovare quella giusta relazione, quel giusto rapporto tra il produttore e il consumatore, cercando di fornire e di ottimizzare tutti quanti i prodotti che vengono utilizzati sul mercato. Nei confronti di quest'ultima vicenda, infatti, noi ci siamo posti nelle condizioni, come primo problema, quello di pulire e di esitare sul mercato un prodotto che sia sanissimo e che garantisca i consumatori, assicurando nel contempo, per quanto ci è possibile, evidentemente il reddito nei confronti degli imprenditori, perché dietro a ogni piccola cosa che portiamo sulle nostre tavole ci sono delle famiglie di persone che lavorano e che si impegnano tutti i santi giorni dell'anno. Certo. Pensiamo all'allevatore di vacche da latte, che magari munge mattina e sera e che si impegna nella propria profondità, proprio nella tutta la sua espressione anche culturale oltre che familiare, nel poter fornire il latte migliore. Certo. Che sia possibile nelle mense delle nostre famiglie, insomma. Certo, ci fermiamo un attimo, tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. To leave me. And I'm too sexy for this song. torniamo in linea con la trasmissione Il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di consorzi agrari e lo stiamo facendo con Paolo Martin, direttore del Consorzio Agrario di Padova e Venezia. Abbiamo visto cosa fanno i consorzi agrari, cosa si può trovare presso di loro e chi può usufruirne. Vorremmo parlare adesso di biodiversità, perché magari a volte i consorzi forse sono visti come i luoghi forse della standardizzazione, perché si pensa che lì si possono trovare solo alcune sementi, alcune varietà. Giocate un ruolo anche sulla promozione, magari anche presso questi coltivatori, di varie tipologie di semi, cioè di sperimentazioni o altro? Guardi, io credo che se c'è un soggetto che oggi fa innovazione in agricoltura sia proprio il Consorzio Agrario. Noi collaboriamo con l'università, collaboriamo con diversi istituti proprio nel territorio, esistenti nel territorio, ma per creare e sviluppare innovazione in agricoltura. L'abbiamo fatto con le energie rinnovabili nel momento in cui c'era la necessità e c'è tuttora necessità di farlo. Lo stiamo facendo anche in termini di ricerca di nuove, meno impattanti prodotti che aiutano la germinazione del seme piuttosto che le coltivazioni stesse. Lo facciamo anche con moderne tecniche di irrigazione, come abbiamo fatto proprio in questi giorni, presentando degli impianti irrigui che siano a basso utilizzo di energia, che possano funzionare con basso utilizzo di energia e contemporaneamente sprechino meno acqua possibile, riducendo addirittura del 60% l'uso dell'acqua. Per cui ecco, credo che queste sono alcune cose che ho annunciato, ma che sono cose decisamente importanti per la vita della persona, perché poi in fondo lo spirito e l'obiettivo che si pone il Consorzio Agrario è di centralità della persona sempre rispetto anche al ruolo economico che comunque deve svolgere un'azienda come questa a beneficio di aziende che debbono fare impresa e debbono far reddito. Ecco, rispetto a un tema, visto che stiamo parlando di questo, come quello degli OGM, quali sono le posizioni? Sappiamo le posizioni sono diversificate anche dagli agricoltori, sappiamo che in Italia non si possono coltivare. Dal punto di vista dei consorzi agrari, che quindi sono intermediari in questo settore e che fanno anche ricerca? Guardi, il problema non è legato al consorzio agrario, il problema è legato alle richieste che vengono poste dai consumatori. Allora, il Consorzio Agrario è nelle condizioni, leggi permettendo, di fornire prodotti a 360 gradi. Certo. Se il consumatore rifiuta per il 70%, come leggiamo dalle indagini, l'utilizzo dei prodotti geneticamente modificati, è indubbio che c'è una tendenza prevalente rispetto a una cosa. D'altro canto, possiamo pure pensare che comunque in questo nostro paese, dove abbiamo poca superficie agraria disponibile, dove abbiamo una grande, credo che abbiamo le maggiori tipicità, la maggiore diversità nel territorio mondiale, secondo me varrebbe la pena valorizzare queste grandi differenze che noi, certo, diversità che sono anche opportunità che abbiamo, rispetto a una invadente omologazione che stiamo cogliendo dagli altri paesi. Per cui ecco, credo, fermo restando che poi sugli OGM si apre un discorso sanitario che va oltre a quello che può essere un'azienda di servizio come la nostra, certo, e su questo fronte qua sicuramente debbono esprimersi persone diverse da noi. Certo è che sul piano economico, ecco, avendo questo paese impostato e fatto delle scelte ben definite, credo che ne valga la pena percorrere questa strada qua. Bene, io la ringrazio della sua disponibilità e abbiamo un po' conosciuto un po' di più questa realtà dei consorzi agrari. Che peraltro sono diffusi in tutto il territorio. Noi da Padova abbiamo oltre 50 agenzie in tutti quanti i paesi, certo, delle province di Padova e Venezia, per cui ecco, sono io che peraltro ringrazio voi dell'opportunità che mi avete dato. Bene, grazie. A voi. Passiamo ora ad alcune notizie. Con la direttiva 128 del 2009 il Parlamento europeo ha dato indicazioni sull'uso sostenibile dei pesticidi, prodotti fitosanitari e biocidi, per ridurne i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente. Al fine di informare sulla direttiva e sulle novità introdotte dalla delibera di giunta regionale 2462 del 2011, Veneto Agricoltura, assieme alla Regione Veneto, in collaborazione con la rete delle scuole agrarie del Veneto, ha organizzato una serie di seminari che si terranno presso gli istituti agrari Lorenz di Milano il 7 novembre, al Trentin di Lonigo il 14 novembre, al Della Lucia di Feltre il 20 di novembre, al Sartor di Castelfranco Veneto il 22 novembre, allo Stefani Bentegodi a Buttapietra di Verona il 27 novembre e al Munerati di Sant'Apollinare di Rovigo il 30 novembre. Parliamo adesso di vino. Un campo per la conservazione del germoplasma di viti tipiche del Veneto orientale realizzato dalla Regione Veneto è stato inaugurato a Pramaggiore, in provincia di Venezia, nell'azienda agricola Le Carline. Si tratta di una collezione di circa 7.000 piantine di vite delle varietà Refosco dal peduncolo rosso, Carmenere, Malbec, Turchetta, Recantina, Pecolo Scuro, Tocai Friulano, Verduzzo Trevigiano e Grappariolle. L'obiettivo ambientale è di conservare in un unico luogo una parte significativa della base ampelografica della zona, salvaguardando le peculiarità produttive di alcune varietà che rappresentano il patrimonio vinicolo storico di quest'area. Importante è anche il risvolto economico. L'iniziativa punta infatti a sostenere la competitività delle aziende viticole del comparto agroalimentare, valorizzando la qualità del prodotto finale in modo da contrastare la crescente omologazione del gusto e delle varietà. Sarà tutta da vivere la 21esima edizione del Merano Wine Festival, in programma dal 9 al 12 novembre presso il Kurhaus, gioiello architettonico di stile secessionista della celebre cittadina dell'Alto Adige. 300 cantine italiane e 120 straniere sono state selezionate per questa manifestazione, annuale appuntamento per appassionati del buon vino e del buon cibo, seconda in Italia forse solo al Vinitaly. Al festival si affianca Gourmet Arena, rassegna culinaria in cui 13 chef di altrettanti ristoranti e alberghi italiani presenteranno le loro proposte culinarie, nuove o reinterpretate attraverso il tema di quest'anno, l'ecosostenibilità. Sempre in tema di vino, a Villa Pollini di Luvigliano di Torreglia si svolge, fino all'11 novembre, la 43esima mostra dei vini DOC e di OCG dei Colli Euganei. La mostra è aperta tutti i giorni. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento con il quadrifoglio la prossima settimana. Vi ricordiamo che potete scaricare questa puntata dal sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.